in primo piano. L'inchiesta di Trani è quella con le intercettazioni del presidente del Consiglio Berlusconi. Agli atti 18 telefonate del Premier, così è scattata l'inchiesta di Trani. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Rai, Agicom, via gli interrogatori. Nell'indagine coinvolto anche il CSM. Questo è Repubblica. Per il Messaggero, Trani, le telefonate dell'inchiesta. Il Giornale, come sempre provocatorio, Vittorio Feltri. E se intercettassimo i magistrati? Con un punto interrogativo. Per l'Unità, tutti zitti. Rai, bocche cucite. Zavoli chiede il ripristino dei talk show. E poi gli ispettori a Trani, abuso di intercettazioni. La Stampa apre su Sarkozy, che ha preso una scoppola in Francia. Francia schiaffa Sarkozy. Vedremo invece il Sole 24 Ore del lunedì, che dà nuovi spunti per il redditometro che verrà, un redditometro tutto nuovo, probabilmente entro la fine dell'anno. Ci sono già le anticipazioni sul Sole. Ma come detto, il fascicolo di Trani è questo: sono 18 le telefonate del presidente del Consiglio che sono finite nelle intercettazioni della procura di Trani. Le presunte pressioni per chiudere anno zero e per far togliere alcuni ospiti sgraditi dalle TV, come Di Pietro, come Eugenio Scalfari, come il direttore di Repubblica Ezio Mauro. Queste sarebbero le telefonate, alcune al membro dell'AGCOM Giancarlo Innocenzi, altre al direttore del TG1 Minzolini. Berlusconi ha detto c'è un'aria malata, un'atmosfera avvelenata. Pagina 3 del Corriere della Sera si legge qualcosa di più. Ci sono in realtà alcuni, non sono stralci di intercettazioni, ma all'interno degli articoli, se leggete, trovate il tenore di alcune conversazioni. Per esempio, il 12 novembre 2009, trasmissione di Anno Zero sul caso del sottosegretario Cosentino, Berlusconi telefona ad AGCOM: stai guardando la trasmissione? È oscena. Ora bisogna concertare una vostra azione che stimoli la RAI a dire basta, chiudiamo tutto. E ancora, ma ti pare normale? Poi in queste telefonate pare che proprio insulti in maniera vera e propria Innocenzi, che non sarebbe in grado in qualche modo di intervenire. Innocenzi incassa un colpo, scrivono Giusy Fasano e Angela Balenzano. Incassa un colpo dopo l'altro, cerca di non perdere la pazienza, il cavaliere lo manda letteralmente a quel paese, poi si sfoga in una chiamata personale, ma ti pare normale? Si sfoga dopo gli insulti. E ora partiranno anche gli interrogatori. Questo anche Repubblica scrive, insomma, le varie intercettazioni. In una telefonata Berlusconi definisce Innocenzi una barzelletta, gli contesta l'immobilismo, insomma, ti pare una cosa possibile? E poi gli dice: ricorda anche che in quel posto sostanzialmente ti ho messo io. Queste però non sono neanche le intercettazioni vere e proprie, evidentemente o qualcuno che ha potuto vederle. Gli contesta anche, gli dice di non avere dignità, gli consiglia di dimettersi. Questo sarebbe Berlusconi a Innocenzi, cioè uno dei commissari dell'AGCOM, perché secondo lui non sarebbe in grado di far intervenire l'AGCOM. Ci sarebbe anche un caso, appunto, CSM, a pagina 4 di Repubblica sempre. Sostanzialmente Cosimo Maria Ferri, che tra l'altro è il figlio dell'ex ministro Ferri, quello diventato famoso per i 110 all'ora, ed è fa parte del CSM, sarebbe stato intercettato e sarebbe finito in queste intercettazioni perché cosa avrebbe fatto veramente Ferri? Secondo qualcuno sarebbe stato, insomma, una sorta di consulente interpellato anche da Innocenzi per capire come fare eventualmente a chiudere le trasmissioni. Questo almeno si deduce dai resoconti, ma in realtà Repubblica dice per tutto il giorno di ieri Ferri ha il cellulare spento e non viene raggiunto. C'è un articolo interessante di Sergio Rizzo a pagina 6 del Corriere della Sera sulla AGCOM. Nominati dai partiti, la difficile indipendenza dei commissari AGCOM. Diciamolo con chiarezza, dice Sergio Rizzo, fare il garante delle telecomunicazioni in un paese dove la RAI è controllata dai partiti e il Presidente del Consiglio ha tre reti televisive con la legge sulla par condicio che scatta per ogni elezione, cioè in Italia mediamente una volta all'anno, non deve essere proprio facile. Soprattutto se il garante è nominato dal governo e gli 8 componenti che lo affiancano sono indicati dal Parlamento, 4 dalla maggioranza, 4 dall'opposizione. Con altrettanta chiarezza va detto che nessuno dei nove si può lamentare, scrive Rizzo. Al presidente vanno 477.000 euro l'anno, lordi, ai commissari 398.127, sempre lordi. E poi insomma un'analisi di come l'indipendenza, si chiede Sergio Rizzo, possibile che in questa situazione con i politici che nomina eccetera l'indipendenza sia davvero garantita? La domanda è inevitabile, questo per quel che riguarda l'Agicom. Mentre provocatore e provocatorio, meglio dire, è oggi Vittorio Feltri sul Giornale. Come detto, il titolo di prima pagina è questo: se intercettassimo i magistrati? Vale a dire, a parte che Feltri fa una premessa, dice sul Fatto, il Fatto giornale criticabile, criticato ma interessante, tanto è vero che con quattro gatti in redazione riesce a fare impazzire il potere e a vendere copie per essere autonomo. Questo insomma quasi una dichiarazione di stima da parte di Vittorio Feltri per il Fatto. Detto questo, Feltri dice, per quel che riguarda l'inchiesta di Trani: primo, le telefonate di un parlamentare del Premier non si possono intercettare. Secondo, se per caso si accade di udire di straforo una chiacchierata del Premier, non va registrata e se registrata va distrutta. Terzo, nella circostanza invece è successo che il Premier sia stato arbitrariamente intercettato. Quattro, la procura di Trani non mi sembra si sia sforzata di chiarire l'incidente. E poi alla fine dice: vogliamo capire come le intercettazioni che non dovrebbero uscire se non al processo sono uscite? Si vuole condannare il magistrato ed eccola qui la provocazione. Impossibile identificarlo? Ma va là, basta intercettarlo, no? E da qui lo spunto. E se intercettassimo i magistrati? La politica si anima anche per quello che sempre per la verità il Giornale ha anticipato ieri, oggi viene confermato da tutti, leggo anche sul Corriere della Sera. Il primo aprile partirà Generazione Italia. Feltri dice è il nuovo partito di Fini. Fini dice, fa sapere insomma che è un'ossessione proprio quella di Feltri di pensare al tradimento di Fini. In realtà è una nuova, come dire, come si chiamano in queste cose, iniziative, think tank, pensatoi, insomma partirà comunque Generazione Italia voluta da Fini. Italo Bocchino sarà colui che insomma la animerà. Vogliamo muoverci per dare una scossa al partito, ma dentro il partito, questo dice Italo Bocchino. Per il Giornale appunto è la prova che Fini vuole staccarsi da Berlusconi, dal PDL, mentre Fini dice assolutamente no. Anche se ieri Berlusconi una stoccatina a Fini l'ha data andando alla festa per i 90 anni di Don Verzé, ha detto siamo 4 punti sotto. Per tanti motivi, si è parlato di Tangentopoli che non esiste, il problema delle liste, i giornali non ci aiutano, le intercettazioni per i continui attacchi dei magistrati, perché Fini ogni tanto spara. Ecco, ha messo tra le varie cause in questa stoccata Berlusconi anche Fini. Vabbè, lasciamo la politica per arrivare ad altre segnalazioni. Intanto una segnalazione che abbiamo sentito anche anticipata in una breve nel nostro notiziario, la dà solo Repubblica e riguarda che cosa? Il collegato lavoro, vale a dire la legge che il Senato ha approvato in via definitiva la scorsa settimana, che prevede tra le altre cose anche la possibilità di, alla stipula del contratto tra datore e lavoratore, in alcuni casi di scegliere in caso di controversia l'arbitrato anziché andare davanti al giudice. Che cosa scrive Repubblica con Massimo Giannini, vale a dire il suo vice direttore? Il no di Napolitano alla legge che evita l'articolo 18. È un'anticipazione che, ripeto, ha solo Repubblica. Secondo Massimo Giannini, in quel testo approvato definitivamente dal Senato, in cui c'è scritto che le controversie tra datore e dipendente potranno in alcuni casi essere risolte da un arbitro in alternativa al giudice, non piace a Napolitano. Avrebbe forti perplessità il capo dello Stato, tanto che non ha ancora preso una decisione definitiva se firmare o meno la legge, ma allo stato attuale, scrive Repubblica, sembra intenzionato a non firmare la legge e a rinviarla al Parlamento con un messaggio motivato per una nuova deliberazione. La legge è stata criticata molto dalla CGIL, ci sono vari, una ricostruzione di un'intera pagina, pagina 9 di Repubblica, di pareri giuridici che sarebbero al vaglio del Quirinale. Insomma, in questo dossier, lo studio del Quirinale, le opinioni critiche dei giuristi sono tante, ben argomentate, ecco perché Napolitano sarebbe intenzionato a decidere un rinvio della legge. Beh, questo è interessante, ne ha parlato molto anche Oscar Giannino la scorsa settimana, è un'anticipazione, ripeto, che trovate solamente su Repubblica. Io voglio aprire la pagina dedicata alla vicenda della pedofilia e della Chiesa, perché trovate ancora tantissime pagine oggi sui giornali. Tra l'altro oggi è attesa la lettera che il Papa dovrebbe ha scritto e dovrebbe consegnare alla Chiesa irlandese, una Chiesa colpita in passato da alcuni scandali di preti pedofili. Le misure antipedofili, più selezione nei seminari, parla al Corriere della Sera Monsignor Rino Fisichella, che dice: figuriamoci se Papa Benedetto XVI in questo momento si occupa di altro. È una persona chiara, netta, determinata, estremamente lucida nella sua analisi. E poi dice Fisichella: a costo di essere frainteso, io sto sempre e starò sempre dalla parte delle vittime, sempre e in ogni caso. Una simile violenza grida vendetta al cospetto di Dio. E dice Fisichella: anche se fosse un solo caso in Europa, e ahimè non è così, sarebbe troppo. Questi fatti gettano ombre su tutta la Chiesa. Ecco la domanda: e il celibato? Perché qualcuno ha detto il celibato è la causa, potrebbe essere una delle cause della pedofilia. Noi non siamo dei repressi, siamo persone che hanno fatto una scelta libera di dedizione e amore per la Chiesa e coloro che ci vengono affidati. I pochi che vi attentano creano un danno enorme alla stragrande maggioranza di preti che vive questa dimensione con gioia e serietà. E poi dice: non c'è solo la Chiesa, e sulla cultura del silenzio in Italia, l'accusa di essere in qualche modo portati a nascondere queste cose, i rari casi che si sono verificati, dice Fisichella, sono diventati pubblici, la nostra cultura mi sembra ci allontani da tutto ciò. Tra l'altro ci sono storie, ecco, per esempio La Stampa è andata a trovare quel prete identificato come Monsignor H, che quando Papa era vescovo in Germania sarebbe stato in qualche modo, invece che denunciato, spostato qua e là, e ora pare sia ancora a Bad Tölz, dove La Stampa l'ha trovato e dove ancora recita messa, insomma sta con accanto ai giovani, padre Ullermann. Ovviamente La Stampa è andata a trovarlo e la comunità ora dove si trova Bad Tölz dice: siamo sconvolti, non sapevamo nulla, è stato condannato due volte ma nessuno ce l'aveva detto, celebrava la messa, portava i ragazzi al camping, continuava così. Repubblica: io vittima di un prete a 12 anni, ora il Papa esca dall'ambiguità. Insomma, ci sono interviste qua e là e moralisti della vita bassa che mettono la Chiesa sotto assedio. Questo è l'editoriale di Giuliano Ferrara oggi sul Foglio. Ne leggo alcuni stralci: la vita bassa di ragazzini e ragazzine, la guardia alta contro la pedofilia, il preservativo a scuola, il rigore nei seminari. Il secolo propone alla Chiesa i suoi ridicoli, grotteschi paradossi e noi dovremmo bere questa abbondanza di menzogna, spettatori inebetiti dell'assedio. Il secolo dice alla più forte istituzione cristiana, la Chiesa cattolica, e alle altre denominazioni che ancora non abbiano deciso di ordinare le donne, di spegnere il sacerdozio consacrato nel sacerdozio universale, di autorizzare i matrimoni Christian gay. La vostra carne è debole, siete perversi, la vostra castità è lo schermo dietro il quale si scatena l'inconscio freudiano. La Chiesa è la tenutaria di un bordello pedofilo mascherato e nemmeno il Papa è immune da responsabilità. Capisco la reazione malcerta della gerarchia, hanno vivo il senso del peccato, considerano santa la Chiesa stessa. Li capisco perché sono ormai da molti anni l'obiettivo di una vasta, forte, sistematica campagna di diffamazione e colpevolizzazione che ha un solo obiettivo: scardinare la tradizione e la dottrina della Chiesa. Il secolo la circonda con la sua vita banalmente erotizzata. Butta sul mercato l'ideale giovanile di Sisley, Dolce & Gabbana, Calvin Klein. I suoi modelli sono la danza di stupro con la ragazzina distesa, il machismo del branco che le si annuvola intorno, le patte gonfie delle mutande adolescenti. Insomma, scrive Giuliano Ferrara, è una lotta ideologica, una caccia alle streghe. Ecco la Chiesa sotto assedio dall'attacco del secolo, del potere secolare, scrive Giuliano Ferrara. È questo il tema nostro di oggi, parleremo di questo tema anche scomodo se volete. La domanda è questa: secondo voi la Chiesa dovrebbe rivedere il celibato dei sacerdoti? Votate su Radio24.it, ne parleremo poi alle 8.30. Voglio andare sul Sole 24 Ore, dove, come detto, ci sono le anticipazioni. Il Sole 24 Ore del lunedì, un redditometro tutto nuovo. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che si sta studiando il nuovo redditometro. Entro la fine dell'anno dovrebbe partire la sperimentazione, c'è tutto il percorso spiegato nelle pagine di Norme e Tributi. Le quattro tappe, il redditometro del futuro non guarderà, questa è la prima novità, più al solo possesso di beni o investimenti, ma dovrà misurare la reale capacità di spesa del contribuente in relazione al reddito dichiarato al fisco. Non solo, dirà addio a coefficienti e soprattutto dovrà essere uno strumento semplice, una sorta di fai da te, che è fattibile per tutti. Per esempio, anche l'utilizzo dei beni. Andranno in pensione caravan, roulotte, cavalli, per intenderci, insomma, di quelli che sono i beni utilizzati per capire lo strumento del redditometro. Ci sono tutte le anticipazioni, ci sono le strategie anticipate dal direttore accertamento delle entrate Luigi Magistro e c'è anche un commento di Salvatore Padula in prima pagina che dice: è efficace questo strumento del redditometro, uno strumento intuitivo, fuori da ogni dubbio che a maggiori spese o a maggiori disponibilità di beni debba corrispondere un'adeguata capacità reddituale, salvo prova contraria. Dunque lo strumento c'è, ma è uno strumento, così come è strutturato, non più attuale, che può creare anche delle discriminazioni e iniquità. Per esempio, si è sempre detto, tra una casa super lusso nel centro di Roma e un'altra di identica metratura nella zona industriale di Piombino, uno strumento asettico come l'attuale redditometro non fa differenza. Oppure è uno strumento che pesa allo stesso modo i cavalli fiscali dell'auto sportiva con quelli del SUV coreano, o che non distingue tra, o meglio, mette tra i beni considerati di lusso i camper da una parte o il fatto di poter contare sull'aiuto di un collaboratore domestico. Ecco, questi sono i limiti e oggi sul Sole 24 Ore tutte le anticipazioni di come l'Agenzia delle Entrate sta studiando per superare, per migliorare questi limiti. C'è anche una pagina sul Sole, a pagina 6, sui fallimenti, il solito disastro della giustizia civile italiana. 9 anni e mezzo per chiudere un fallimento, questa è la performance media degli uffici giudiziari italiani, 2 e mezzo in più dei 7 anni che la Cassazione ha fissato come termine ragionevole. E poi, insomma, ci sono tribunali, questa è la media, ci sono tribunali dove va meglio, come Milano, Torino, Brescia, Trieste, ci sono tribunali come a Caltanissetta dove la media è di 22 anni, ma trovate come al solito a pagina 6 tutta la classifica, diciamo, di chi sta messo meglio e chi sta messo peggio e chi sta al disastro per quel che riguarda la giustizia civile. L'ultima segnalazione, essendo lunedì, è dalla Gazzetta. Rosso Alonso, la vittoria della Ferrari, torna la vittoria della Ferrari, primo e secondo posto Alonso e Massa, trionfo Ferrari, doppietta in Bahrain. E poi c'è anche il campionato ufficialmente riaperto, Milan, Seedorf, non... l'avete capito, sì come sì, il contrario di no, Seedorf. Questo è il titolo, -1, io rido perché con Peter siamo contenti, abbiamo un po' fatto un salto sui rispettivi divani ieri al gol di Seedorf.